Cominciamo con Pietro Poletto, ricordando un po' la cronistoria di questo mercato, dell'SDX Poletto, che è nato nel 2004 e ha conosciuto in questi anni una crescita esponenziale. E peraltro, da quello che ho capito, per esempio nel 2008, l'anno più forte per quello che riguarda la crisi economico e finanziaria recente, anche se il peggiore in termini di economia reale è stato il 2009, ha registrato un vero e proprio successo di distribuzione fra i piccoli investitori di certificati a capitale protetto, garantito nell'anno proprio di crisi dei mercati. Ma in sostanza adesso come stanno andando le cose? È un mercato vitale e piace ai piccoli investitori? Ma sì, sicuramente un mercato vitale e anche ben evidenziato dalla presenza di continue emissioni e dall'arrivo di nuovi emittenti sul mercato, per cui viene considerato una piattaforma di distribuzione, di negoziazione di prodotti che sono efficienti per meglio affrontare le diverse turbulenze del mercato. Ovviamente nel corso degli anni il mercato è evoluto, diciamo che il SEDEX nasce nel 2004, ma i primi prodotti li abbiamo quotati nel 1998 con i primi cover warrant, per cui il mercato era nato come mercato di cover warrant che poi si è trasformato in un mercato di derivati cartolarizzati con le prime quotazioni di certificati che possono essere a leva o di investimento, come è stato giustamente spiegato nell'introduzione. È ovvio che le turbolenze del mercato hanno impattato anche questi prodotti, ma la flessibilità con cui questi vengono emessi ha consentito ai principali emittenti di presentarsi sul mercato con prodotti che potevano meglio rispondere alle situazioni anche difficili che abbiamo vissuto negli ultimi anni.